edizione. Le 6, 14 minuti e 12 secondi. Alcune notizie della notte, ce ne sono parecchie. Iniziamo dalla Casa Bianca, che è stata chiusa e isolata questa notte dopo il lancio di una sorta di fumogeno attraverso la recinzione del comprensore dell'edificio. È stata isolata naturalmente per consentire le indagini. Su questo al momento non ci sono maggiori dettagli, mentre invece c'è qualche dettaglio su un'operazione avvenuta nella notte contro il traffico di droga in Italia. Un sistema di spaccio droga è proveniva dalla Spagna, era venduta in varie zone d'Italia, 27 ordinanze di custodia tra Verbania, Novara, Torino, Varese e Milano. Questo per quanto riguarda la cronaca. Per quanto riguarda l'economia invece sono arrivate le previsioni della Banca Mondiale, che ha tagliato le stime di crescita globali. Si parla di rallentamento dell'economia mondiale, che rischia a suo giudizio di investire duramente i paesi in via di sviluppo. Le ultime previsioni danno una crescita del PIL planetario del 2,5% nel 2012 contro il 2,7% stimato nel 2011. E come potrete ben immaginare, sono dati particolarmente pesanti per l'Europa e per le economie avanzate. Le economie avanzate cresceranno quest'anno dell'1,4% contro il 2,7% stimato in precedenza, con l'area euro che si contrarrà dello 0,3% in decisa frenata rispetto all'1,8% delle previsioni precedenti. Queste alcune delle notizie della notte. Ci ritroviamo tra un momento, subito dopo la viabilità, e facciamo il punto su quel che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 16 minuti e 52 secondi. Dunque, vediamo che cosa troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, sui principali quotidiani ovviamente. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è sulla scarcerazione del comandante della nave. Scarcerato il comandante della nave, questo è il titolo. E poi quell'ordine di defalco dal porto di Livorno, vada subito a bordo. L'editoriale di prima pagina, firma di Aldo Grasso, si intitola Grazie Capitano, ed è appunto un ringraziamento proprio per De Falco, per quella telefonata che avete sentito, e per una frase che è diventata piuttosto nota in rete. A centropagina ancora un altro titolo sulla Concordia, sul naufragio della Costa Concordia, e un pezzo a firma di Fiorenza Sarzanini, tra virgolette, sono le carte dell'accusa, ha abbandonato anche i disabili. E poi trovate altri 5 corpi nel relitto, restano 23 dispersi. C'è in prima pagina, sempre sul Corriere della Sera, il tema delle liberalizzazioni, proteste e risse, i tassisti in piazza divisi, ma da segnalare anche il commento in prima di Dario Di Vico. Il titolo è "Mai petardi non aiutano", e si parla naturalmente di quello che è successo ieri a Roma con la protesta dei tassisti. Di taglio basso, la storia che riguarda i soldi della ricerca, firma Massimo Sideri. I soldi della ricerca vanno per gli stipendi, 7 euro su 10 del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, spesi per il personale. E altri due temi, uno riguarda le tangenti lombarde, il caso Ponzo. L'ex assessore comprava voti anche per il PDL, pezzo a firma di Luigi Ferrarella. E poi ricorderete la vicenda del cosiddetto leghista ribelle, quello che voleva far pagare le multe sul latte. Ebbene, è stato reintegrato al suo posto all'AGEA. Anche La Stampa sceglie l'apertura sull'uscita, sulla decisione di non portare in carcere il comandante, di far uscire dal carcere il comandante. Scarcerato il comandante, schettino ai domiciliari, non ho abbandonato la nave, PM non capisco. E poi fa il giro del mondo la telefonata con l'ufficiale della Capitaneria di Livorno. Anche su questo, anche a questo è dedicato, anche sulla Stampa è dedicato il commento di prima pagina a questa vicenda qua, a questa telefonata. Il titolo è "L'unico eroe", a firma di Massimo Gramellini, e a dispetto del titolo in realtà è piuttosto critico, mettiamola così, sulla su questa questione di fare di De Falco una sorta di eroe. In alto però sulla stampa troviamo i titoli dedicati all'economia e Monti che dice che temo più le tensioni europee di quelle italiane e Berlino che gela Roma, l'Italia può farcela da sola. E poi i sindacati uniti, il governo cambi politica economica, il premier anticipa all'Unione Europea le linee del piano sul debito. È tra i pochi quotidiani nazionali la stampa che riporta, tra i principali almeno, che riporta della rivolta in Sicilia per il caro gasolio, evidentemente un titolo piuttosto forte, come vi abbiamo detto ne parleremo più avanti, il tutto affiancato da un commento di Federico Geremicca, la rivincita dei forconi. La Repubblica apre invece con l'ammissione di Schettino. Sì, ho sbagliato manovra. Interrogato Schettino, il PM contesta il GIP, non capiamo la scarcerazione, recuperati altri 5 corpi, i dispersi, qua troviamo un'altra cifra, sono 28. Ai domiciliari il comandante, shock per le telefonate della vergogna. I pezzi qua sono a firma su quella famosa telefonata, scrive anche Adriano Sofri. Il caso, come il pianto di un bambino, e l'altro capitano che dice l'eroe non sono io, e un pezzo a firma di Concita De Gregorio che parla invece di quei destini incrociati nel mare del Giglio. Dedica un titolo anche ai tassisti della Repubblica, tassisti in rivolta, blocchiamo Roma, Banca Italia crescita zero e Berlino che gela Monti e dice fate da soli. E poi un pezzo di Alberto Statera dedicato alle vicende che riguardano la regione Lombardia dopo l'ennesimo arresto, le amicizie pericolose del celeste Formigoni, questo il quadro dalla Repubblica. Si segnala anche la guerra di Wikipedia ai padroni di Hollywood, perché è in via di approvazione una legge americana per la protezione del copyright molto rigida, contro la quale Wikipedia ha deciso di oscurarsi per alcune ore. Ne parleremo tra l'altro anche nei nostri giornali radio. Il Messaggero, l'apertura è abbandonato 300 persone, il PM così il comandante è scappato dal mare ma il GIP lo scarcera. E poi naturalmente c'è anche qua immancabile il racconto della telefonata, l'ordine dell'ufficiale che dice Schettino torni a bordo, e il Messaggero, e questo è decisamente da segnalare, è un tra i pochi quotidiani, tra i principali, che dedica un titolo forte alle parole di ieri, all'intervento di ieri alla Camera del Ministro della Giustizia Severino, che dice 9 milioni di processi arretrati. Relazione sulla giustizia, sì a mozione unitaria. Presenta anche dal lato politico il Messaggero un'intervista a Beppe Pisanu, dice bene i partiti, ora unità nazionale per fermare il declino. E poi la vicenda della quale vi parlavamo ieri, ossia il fatto che è stato trovato impiccato uno dei due presunti killer di padre e figlia a Tor Pignattara a Roma, ebbene l'ipotesi dell'omicidio vendetta per il killer dei cinesi impiccato, questo il titolo del Messaggero. Veniamo al Sole 24 Ore. Corsa alle aste, cadono gli spread, i tassi dei BTP scendono al 6,5%, il differenziale sul Bund cala a 471 punti, quindi questa l'apertura. Un editoriale a firma di Martin Wolf, l'Europa aiuti i Super Mario. Poi l'incontro, c'è un pezzo sull'incontro del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco con i banchieri. Ora allentare la stretta, si parla naturalmente della stretta creditizia. Due temi per quanto riguarda le inchieste del Sole 24 Ore, un'inchiesta di Claudio Gatti, quei fondi avvoltoio che spolpano Atene, questo è il titolo, e poi quella di Fabio Pavesi per il Signore del Rating, 1 miliardo di utili netti. Sulle liberalizzazioni invece ci fa sapere il Sole 24 Ore che per i benzinai si tratta sull'esclusiva, e intanto fumata nera nell'incontro governo tassisti, cortei e risse a Roma. Per quanto riguarda la finanza invece vi segnaliamo questa notizia: il fondo sovrano di Abu Dhabi vuole salire al 6,5% in Unicredit. Diamo anche un'occhiata a quello che troviamo su alcuni dei quotidiani esteri, o quantomeno quello che abbiamo trovato nelle loro edizioni online. Al di là della questione delle primarie repubblicane, iniziamo proprio dalle primarie repubblicane, c'è una storia niente male, che è quella che riguarda il candidato favorito Mitt Romney, contro il quale naturalmente si stanno più o meno coalizzando tutti gli altri candidati. Sta salendo la pressione, riferisce il New York Times, proprio su Romney, perché gli è stato chiesto di rendere esplicito, di far sapere esattamente qual è il suo reddito e quanto paga di tasse. Questo perché è una pratica che i candidati alla presidenza hanno sempre, almeno negli Stati Uniti, hanno sempre messo in atto. Tra l'altro è arrivata anche in forma quasi indiretta, ma nemmeno troppo, una pressione persino dalla Casa Bianca su questo tema. Tra l'altro, ad inaugurare questa pratica fu proprio il padre di Romney. Ebbene, questo potrebbe rappresentare un problema politico per Romney. Perché? Perché ha fatto sapere che paga più o meno il 15% di tasse, che è decisamente poco. Perché? Perché sono prevalentemente rendite finanziarie, e ha definito non particolarmente alto il suo reddito dell'anno scorso, però sono $374,000, il che lo porta molto vicino, nota il New York Times, a quel famoso 1% di americani più ricchi. Si parla di fondi avvoltoio sul Sole 24 Ore, ebbene l'Independent ci fa sapere che gli hedge funds stanno minacciando di bloccare l'ultimo tentativo di salvare la Grecia, e oggi ci sarà da questo lato un incontro decisivo. Questo il quadro dalla Grecia, bisognerà vedere che cosa succederà nella giornata di oggi. Alcuni gruppi che rappresentano i detentori privati di bond greci incontreranno i ministri in Atene per negoziare un taglio per quanto riguarda le obbligazioni. Poi infine vi vogliamo riportare una storia che arriva dal Guardian, che riguarda un rapporto arrivato da Save the Children e Oxfam, che ricorda come la morte di decine di migliaia di persone durante la siccità che c'è stata nell'Africa dell'Est, vi abbiamo anche raccontato nei nostri giornali radio nei mesi scorsi, si sarebbe potuta evitare se la comunità internazionale, i donatori, le agenzie umanitarie avessero risposto prima e più rapidamente ai segnali che il disastro stava arrivando. Vogliamo chiudere con una con il Wall Street Journal, che ci segnala due cose. Innanzitutto che il cofondatore di Yahoo, Yang, ha deciso di dimettersi dal board, Jerry Yang, dal consiglio d'amministrazione. E poi l'Iran che avverte i sauditi: evitate di mettere sul mercato altre quote di petrolio per compensare il calo di petrolio iraniano dovuto alle sanzioni. Questo ci ricorda naturalmente un altro fronte di tensione internazionale. Le 6. Prima edizione. 6, 34 minuti e 55 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 18 gennaio. Riqualificare la vecchia Darsena, aprire le originarie strade dell'acqua di Milano. Dopo anni di stallo e di polemiche a Milano intorno all'antica Darsena, questo progetto prende il via, con l'obiettivo di essere finito prima dell'inizio dell'Expo nel 2015. Lo hanno annunciato l'amministratore delegato di Expo Giuseppe Sala e il sindaco del capoluogo lombardo Giuliano Pisapia. Una delle parti più belle della città era stata violentata, ha commentato Pisapia. È un impegno, un sogno, una speranza che si sta finalmente trasformando in realtà. Entro l'estate ci sarà la gara per l'assegnazione dei lavori, entro dicembre partiranno finalmente i lavori ed entro il 2014 restituiremo ai milanesi, a chi vive e lavora a Milano, a chi studia a Milano, ma soprattutto ai tanti turisti che verranno a Milano prima e dopo l'Expo, un gioiello che purtroppo in questi ultimi anni è stato o dimenticato o deturpato. Questo progetto è un progetto di Expo 2015 e quindi rientra nel progetto del Expo e del dopo Expo. Per quanto riguarda Expo, chiaramente c'è una società che ha preso delle decisioni che porterà avanti questo progetto. Per il dopo Expo, quello che si farà e si potrà fare intorno per rendere sempre più vivo e sempre più bella non solo quella parte della città ma l'intera città sarà sempre concordato, discusso e confrontato con i cittadini. Questo progetto di riqualificazione della Darsena rientra in un unico disegno insieme anche al progetto di Area C, diciamo, di un'impostazione più ecocompatibile della città? Questo è un tassello di un progetto molto più ampio per rendere la città più vivibile, più attrattiva per i turisti e per i milanesi e quindi anche più ecologica e più verde. Quando parliamo di Area C isolatamente dal teleriscaldamento che è sempre più ampio e sempre più sviluppato, dalle zone verdi, dalle zone pedonali, dalle piste ciclabili e a progetti che diventeranno realtà come quello della Darsena, si isola un aspetto di un progetto più complessivo, che è quello di rendere una città più bella e quindi una città più ricca da tutti i punti di vista. Questo è un progetto della società Expo che ha un specifico budget. Poi per quanto riguarda la città abbiamo tempo per allargare evidentemente quello che è un progetto iniziale importante. Però se non si inizia e se non si portano avanti quelle iniziative che già sono pronte, alla fine non si fa qualche cosa di ulteriore e di migliore. Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Minuti e 24 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e adesso passiamo a parlare dei temi che riguardano il naufragio della Costa Concordia. Come vi abbiamo detto, in primo piano c'è la notizia che il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, è tornato a casa a meta di Sorrento dopo che il GIP gli ha concesso i domiciliari, con la procura che si mette abbastanza in polemica col giudice per le indagini preliminari, però oggi è una giornata piuttosto importante perché oggi ci sarà il via allo svuotamento dei serbatoi. Molto si è parlato, naturalmente ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi come avete sentito, del rischio ambientale per l'isola del Giglio, per tutto l'arcipelago toscano e per quella zona, quindi oggi è un momento decisivo da quel lato, come ovvio. Ora, così come ieri vi abbiamo avvertito, lo facciamo anche oggi. Avete sentito poco fa la voce della nostra Raffaella Calandra in Italia in controluce, un'intervista al sindaco Pisapia registrata qualche giorno fa, poi l'abbiamo spedita all'isola del Giglio e oggi ha intervistato proprio sul rischio ambientale il sindaco del Giglio Sergio Ortelli. Sentiamo. Sì, le operazioni di svuotamento del serbatoio sono operazioni che ovviamente sono compatibili con quella che è l'operazione più importante, che riguarda la ricerca dei dispersi, la ricerca di qualcuno che possa essere sopravvissuto a questa tragedia. Oggi c'è stato questo vertice in prefettura, che cosa avete deciso? Alla presenza del capo dipartimento, il prefetto Gabrielli, alla presenza anche del presidente della Costa, i quali appunto hanno dato reciprocamente delle forti assicurazioni sulle operazioni e sugli interventi, è stato in generale detto di fare molto presto, perché chiaramente prima si arriva a rivisitare tutti gli spazi della nave e forse maggiori sono le probabilità di trovare ancora qualcuno in vita. E quindi sono state date delle indicazioni su come intervenire, tant'è vero che anche stanotte si cercheranno, giusto? Sì, sono state amplificate, diciamo, le operazioni nel tentativo di illuminare anche la notte, quindi la nave verrà illuminata a giorno, in modo che il problema è sempre quello di sempre, mettere in sicurezza anche le persone che stanno entrando a ricercare i dispersi, per non creare e non sovrapporre una tragedia all'altra. Questo lo facciamo in tanti modi, tra cui quello di garantire la stabilità della nave. Sono stati installati due strumentazioni importantissime perché valutano le oscillazioni anche di pochi millimetri della nave in tutti i movimenti. È ovvio che torniamo al carburante, appunto, cominceranno le operazioni di svuotamento, i tempi previsti, come avverrà, e appunto lei ha parlato anche con i funzionari di questa società olandese, la Smit. Dunque, il progetto di svuotamento è pronto, i tempi non sono così certi come si può essere certi quando si va in vacanza, perché sono fondamentalmente vincolati alle condizioni meteo marine. Domani mattina arriverà il pontone, inizieranno le operazioni che sono compatibili con le altre che dicevo prima di soccorso, e ripeto, queste informazioni io le fornisco anche per rassegnare un po' tutti anche sull'aspetto del possibile rischio ambientale, che per noi è, prima arriva la vita umana e poi arriva la salvaguardia dell'ambiente, quindi è uno degli elementi di importanza. Come procederanno? Che tipo di decisioni sono state prese con la società? Ma sono stati localizzati i tank dove si trova il combustibile, c'è una modalità di esecuzione, mi sembra riscaldino il combustibile perché possa essere risucchiato in modo agevole e quindi non incontrando difficoltà che può esserci in un combustibile che si è raffreddato e magari si è solidificato. Verrà fatto un'operazione che tiene conto anche dei pesi, quindi di questa zavorra, perché il combustibile oggi è una zavorra della nave, togliendo la zavorra la nave potrebbe avere dei movimenti, quindi togliamo una zavorra e ne dobbiamo mettere un'altra, probabilmente tolgono il gasolio e mettono l'acqua. Lei ha chiesto anche delle rassicurazioni sullo spostamento, sulla rimozione del relitto? Sì, ho chiesto velocità nelle operazioni, sempre però tenendo conto della sicurezza, che è un aspetto molto importante. I tempi della rimozione del relitto sono legati prima di tutto alla messa in sicurezza del relitto, cioè togliamo prima il combustibile e poi rimuoviamo il relitto. I tempi della rimozione sono abbastanza lunghi perché... Questo il quadro dal sindaco del Giglio Sergio Ortelli, mentre invece per quanto riguarda la vicenda del comandante Schettino, sempre Raffaella Calandra ha raccolto la testimonianza di Roberto Galli, capo dei vigili urbani del Giglio. Quella notte era lì, l'ha visto sugli scogli in sicurezza. Ora verso mezzanotte e mezzo la mia attenzione è stata attirata da... delle luci che provenivano dalla scogliera che è di fronte al porto, che quindi è, diciamo, perpendicolare a come è ora posizionata la nave. Delle luci lampeggianti che ho individuato subito essere giubbetti di salvataggio, quindi significando che gente si era buttata in mare ed aveva risalito la scogliera. Niente, lì abbiamo trovato un centinaio di persone che si erano buttate in mare dalla poppa della Concordia. E una volta che sono stati messi in sicurezza io sono tornato nuovamente sulla scogliera per verificare se vi erano altre persone. E lì c'era anche il comandante della Concordia? C'erano delle persone molto più in basso sulla scogliera alle quali io sono andato a dire di venire via, perché secondo me poteva essere anche una cosa pericolosa, dato che era la parte dove il fumaiolo aveva l'inclinazione maggiore. Ovviamente mi sono presentato e alla mia richiesta di seguirmi, loro mi hanno detto che erano membri dell'equipaggio, che, tra cui il comandante, e che dovevano stare lì per verificare l'andamento della situazione. Quindi erano sugli scogli, questo mentre le persone ancora scendevano dalla nave, e quindi c'erano queste luci. Io gli ho detto allora che era, quindi poi... Sì, era intorno a mezzanotte, le persone sono scese, le ultime sono state evacuate... Sono state alle 4:45, le ultime sono state evacuate alle 4:45. Lei ci ha parlato col comandante? Sì. E noi adesso cambiamo argomento, ci spostiamo e andiamo in Sicilia, dove strade, ferrovie, porti, insomma c'è una protesta di un movimento che si è definito Movimento dei Forconi e Forza d'Urto, quello che raccoglie i camionisti aderenti all'AIAS, l'associazione imprese autotrasportatori siciliani. Insomma c'è qualche problema. Saluto intanto il prefetto di Siracusa, Renato Franceschelli. Prefetto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prima edizione. Ci siamo sbagliati, perché alle 6:15 in realtà ci avevano dato anche qualche aggiornamento siciliano. Comunque, abbiamo il prefetto di Siracusa, Renato Franceschelli. A lui chiediamo di darci innanzitutto, prefetto, un quadro della situazione al momento, perché abbiamo letto anche notizie preoccupanti sul fatto che iniziano a mancare i carburanti, tra l'altro per una protesta che dovrebbe tirare fino a venerdì addirittura. Come siamo messi? La situazione è che, per quello che riguarda la provincia di Siracusa, al momento esistono 19 presidi lungo gli snodi autostradali e l'area industriale di Priolo Augusta. Sicuramente disagi ne sono stati nel corso della giornata e presumibilmente ne avremo anche nella giornata odierna, anche se devo però rappresentare che con senso di responsabilità anche i manifestanti hanno consentito il passaggio di quelle che erano forniture essenziali per strutture ospedaliere, tutto quello che era servizio pubblico è stato acconsentito il passaggio. Non sono dei veri blocchi, sono dei rallentamenti, delle forme di volantinaggio, però insomma certamente hanno creato disagio e continueranno probabilmente a crearne oggi. Ecco, quindi al momento non sono segnalate situazioni di particolare... Cioè non ci sono situazioni di particolare preoccupazione, ripeto, dal lato carburanti, dal lato forniture alimentari? No, per il momento non sono segnalate. Certamente se dovesse durare fino a venerdì, come è programmata, probabilmente l'avremo, però con la collaborazione delle forze dell'ordine, dall'altra parte, le ripeto, un senso di responsabilità degli stessi manifestanti, tutto quello che le forniture essenziali di carburante per gli ospedali, per i sistemi, i servizi pubblici di raccolta dei rifiuti e così via sono state consentite, quindi per ora siamo fronteggiando queste esigenze. Ora poi le affronteremo, se ce ne saranno altre man mano che verranno. Certamente c'è stato disagio per un un'utenza che in questi giorni si è vista limitata con qualche coda nell'attraversare questi presidi e quindi con qualche difficoltà per raggiungere i posti di lavoro e cose simili. E al momento la situazione in provincia di Siracusa. Perfetto, ricordiamo che questa protesta raccoglie, tra l'altro, come si diceva, i camionisti, gli agricoltori, il settore della pesca, insomma, racchiude. La protesta è contro il prezzo del gasolio, se non sbaglio, no, prefetto? La protesta è contro il prezzo del gasolio, le accise, un rilancio economico di settori in crisi. È una protesta abbastanza ampia su molti fronti. Ma l'impressione sua, proprio avendo il polso del territorio, è che si stia diffondendo rispetto, come dire, al primo giorno, che poi era ieri tutto sommato, o domenica forse addirittura? Era lunedì, cominciata la mezzanotte tra domenica e lunedì. Il primo giorno, forse ieri, un po' si è allargata sicuramente, insomma noi... penso che più o meno la situazione sia stabilizzata. Certo, la preoccupazione che possano esserci momenti di tensione, come ci sono anche stati, insomma, però insomma, per fortuna al momento ancora situazioni assolutamente controllabili, quindi speriamo che rimangano in questa maniera anche nelle due giornate ancora previste di blocco. Grazie al prefetto di Siracusa, Renato Franceschelli, per essere stato con noi e buona giornata. Buona giornata a lei, arrivederci. Grazie anche a Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè in regia. Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.